Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il leader del nostro partito è stato condannato con una sentenza che riteniamo ingiusta. Ci sono molti ricorsi pendenti. A nostro avviso sarebbe una lesione della democrazia se Silvio Berlusconi non potesse guidare le liste dei moderati in questo paese. E questo era Toti, lo avete sentito, il consigliere politico di Berlusconi, che ritorna, quindi Berlusconi al centro del dibattito, della scena politica, semmai si fosse sfilato, diciamo, perché ha annunciato Berlusconi che si candiderà per le europee e sarò in campo, dice, nelle 5 circoscrizioni. Toti ha anche twittato durante il giorno: con quanta paura avete? Il PD ha risposto: è incandidabile. Insomma, cercheremo di capire se effettivamente può candidarsi o no, nonostante la condanna definitiva per frode fiscale, Berlusconi alle elezioni europee. Vedo già alcuni vostri messaggi, continuate a scriverli sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Che cosa ne pensate? Che riflessioni vi fa fare questa ulteriore dichiarazione? E poi sentiremo più tardi un esperto costituzionalista che ci spiegherà se effettivamente ci sono gli estremi perché si Berlusconi si candidi oppure no. Poi naturalmente ci sono anche messaggi al 349-238-6666 per le vostre opinioni sui vari temi, ma in particolare su questo, e io vi vado come sempre nella prima parte a riassumere la giornata. Il piano di Renzi è un progetto ambizioso, dice la cancelliera Merkel. Per Squinzi il governo è sulla strada giusta, ma la CGIL teme che il Jobs Act porti altra precarietà. Europei, Berlusconi annuncia la sua candidatura, sarò in campo nelle 5 circoscrizioni. Faccia a faccia Kerry Lavrov, la Russia dichiara di non voler invadere l'Ucraina dell'Est, ma gli Stati Uniti non riconoscono il referendum sull'indipendenza della Crimea. Farmaci, dal Consiglio dei Ministri stretta sui cartelli tra industrie farmaceutiche e sulle droghe leggere, il governo rivede le tabelle. Milan, la squadra potrebbe dire addio a San Siro, punta allo stadio sui terreni dell'Expo. Quindi partiamo naturalmente dalla politica, dal piano di rilancio dell'economia del governo Renzi, che è stato commentato oggi anche dalla cancelliera Merkel, l'avete sentita, che ha detto, Renzi tra l'altro sarà lunedì a Berlino e la incontrerà, la quale ha detto che è un progetto ambizioso. Poi la leader della CGIL Susanna Camusso, che all'inizio aveva festeggiato la presentazione della svolta buona, poi comincia ad avere dei tentennamenti sul Jobs Act, ha paura che aumenti la precarietà, mentre il presidente di Confindustria Squinzi dice che il governo è sulla strada giusta. Insomma, Betta Fiorito, vari pareri discordanti, da un entusiasmo iniziale. Ciao Betta da Roma. Ciao Roberta, come si poteva presupporre è chiaro che poi ci sarebbero state discussioni, siamo in Italia del resto, no? Siamo una democrazia. Allora, riassumiamo. Questa mattina Renzi ha avuto un parere positivo, anche se poi ambizioso vuol dire che insomma Renzi si deve impegnare, no? Questo dice Berlino, è un piano ambizioso di riforme, insomma Berlino spera che Renzi ce la faccia. No. Primo parere positivo, e lui lunedì deve incontrare Angela Merkel, quindi un incontro abbastanza importante insieme con il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, perché si incontreranno Presidente del Consiglio e industriali. L'altra cosa che sta avvenendo, domani deve incontrare Hollande, per cui Renzi stamattina, durante la giornata, si è recata al Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Napolitano insieme con il Ministro degli Esteri Mogherini e poi il Ministro dell'Economia Padoan hanno delineato quello che è il piano per l'Europa, no? Quindi insomma, devono convincere poi effettivamente l'Unione Europea che queste misure hanno una copertura e che lui veramente rivoluzionerà la burocrazia italiana. No? Quindi grande evento in Italia, in un paese molto burocratico è un grande evento. E questo tutto bene fino a qui. Queste sono le intenzioni, adesso vediamo. Sì. Poi però ci sono state un pochino di critiche e sono venute dal Financial Times che critica il fatto che questo piano del lavoro di Renzi non è basato sulla competitività. Dicono la riduzione dell'IRPEF per i redditi bassi alla fine è come una medicina che non curerà l'Italia, perché la malattia dell'Italia è la competitività, e questo oltre manica. Oltre oceano Fitch ha tracciato un futuro funesto per l'Italia nel 2014, perché dicono che la ripresa sarà modesta e ci sarà durante quest'anno il picco della disoccupazione. Quindi voglio dire, Insomma, Roberta, non c'è da scherzare. Intanto in Italia, come tu annunciavi, si profila lo scontro con la CGIL sulla maggiore flessibilità, perché il Jobs Act di Renzi presenta un piano per i primi 36 mesi in cui una persona entra nella fabbrica o nell'azienda, che ci potranno essere contratti a termine senza causale. E questo, a detta di Susanna Camunzo della CGIL, porterà più precarietà. Cioè, per 36 mesi, in effetti, gli imprenditori saranno liberi di testare poi le persone. Tanto è vero che Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, ha detto invece si va nella giusta direzione per aumentare la disoccupazione. Da sempre la battaglia di Confindustria è che ci sia più flessibilità. E a quel punto la flessibilità dovrebbe garantire, come vorrebbe poi il Financial Times, più competitività. Ricordiamo, nei paesi anglosassoni la flessibilità è un dato acquisito. Però qui siamo in Italia e quindi Susanna Camusso della CGIL punta i piedi, ma ricordiamo, la CGIL è il sindacato che è praticamente il maggior azionista di quel sindacato, il PD, che è il partito di Renzi, quindi ce ne sarà da vedere delle belle, Roberto. Ne vedremo delle belle, cara Betta Fiorito. Intanto buona e bella serata a te, buona continuazione. Ciao, buona Betta. Serata a voi. Grazie, ciao. E in Italia, quindi, abbiamo sentito, raccontato da Betta Fiorito, insomma, anche le parti sociali, come hanno visto, come stanno interpretando i primi nodi di questo piano del governo Renzi. Sentiamolo proprio dalla viva voce il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. La verità, io incontrerò il premier lunedì pomeriggio, perché saremo tutte e due a Berlino ad incontrare la signora Merkel e il mio omologo presidente della Confindustria tedesca, insieme con una qualificatissima e ristretta rappresentanza degli imprenditori italiani e tedeschi. Quindi per incontrarlo lo incontrerò, se poi ci sarà possibilità di approfondire temi, questo non ve lo posso dire. E il Consiglio dei Ministri oggi ha varato norme contro i cartelli, i cosiddetti cartelli delle aziende del farmaco, e la riscrittura della tabella sulle droghe dopo la bocciatura, vi ricordate, da parte della Corte Costituzionale della legge Fini-Giovanardi. Il governo corre ai ripari dopo il caso Novartis Roche. Per contrastare accordi di cartello fra le case farmaceutiche, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che disciplina l'uso dei cosiddetti medicinali off-label, cioè utilizzati per patologie diverse da quelle autorizzate in origine. Le novità riguardano la sperimentazione di questi farmaci, che possono essere altrettanto efficaci ma meno onerosi per il sistema sanitario, ha spiegato il ministro della Salute Lorenzin. In presenza di un farmaco utilizzato off-label in altri paesi, ovvero di cui sono disponibili studi anche indipendenti a sostegno dell'efficacia terapeutica, si attribuisce ad AIFA, che è l'Agenzia Italiana per il Farmaco, il potere di iniziare d'ufficio la sperimentazione clinica. Lo stesso decreto ripristina anche le tabelle sulle sostanze stupefacenti, un intervento necessario, ha spiegato Lorenzin, perché con la bocciatura della legge Fini-Giovanardi da parte della Consulta si era creato un vuoto normativo sull'uso di alcune di queste sostanze nella terapia del dolore. Il decreto riguarda solo gli aspetti amministrativi, su quelli penali ci sarà un'ulteriore riflessione, ha fatto sapere il ministro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi lo approfondiremo ulteriormente questa vicenda dei cartelli tra le aziende farmaceutiche, con un medico che ha diciamo un po' scatenato le polemiche, quindi poi a seguire le inchieste. Comunque torna, vi dicevo prima, al centro del dibattito politico Silvio Berlusconi, perché nonostante l'interdizione per una condanna definitiva si vuole candidare alle europee. Parola del consigliere politico Giovanni Toti. L'annuncio lo fa il suo consigliere politico. Silvio Berlusconi si candiderà alle europee. Il cavaliere, fa sapere Giovanni Toti, vuole guidare Forza Italia alle prossime elezioni, le uniche a cui potrebbe cercare di concorrere, visti i divieti esistenti per lui in Italia dopo la condanna per frode fiscale nel processo Mediaset. Un annuncio che ha il sapore della provocazione, preludio di nuove battaglie in realtà. Il 10 aprile, infatti, Berlusconi saprà a Milano dove scontare la sua pena, se ai servizi sociali o ai domiciliari. domiciliari e il 18 marzo la Cassazione dovrebbe confermare i 2 anni di interdizione dai pubblici uffici, mentre già la legge Severino lo ha fatto decadere da senatore. Alla vigilia dunque di una nuova tornata di appuntamenti giudiziari, Berlusconi fa trapelare l'intenzione di candidarsi per Bruxelles. Un europarlamentare affidato ai servizi o costretto in casa? E dire che proprio l'Europa qualche mese fa ha sollecitato candidati puliti nella fedina penale. E anche questo il Cavaliere lo sa bene, come pure il suo consigliere che twitta: Berlusconi in campo, quanta paura ragazzi. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Finale diverso invece si potrebbe dire quello scritto in Germania dal presidente del Bayern Monaco, condannato in primo grado per evasione fiscale. Si è dimesso e rinuncia all'appello. Evadere le tasse è stato l'errore della mia vita e ora ne affronto le conseguenze. Così il presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeneß, ha spiegato la sua decisione di non ricorrere in appello dopo la sentenza di primo grado che lo ha condannato a 3 anni e 6 mesi di carcere per evasione fiscale di oltre 27 milioni di euro. Una scelta, ha detto l'ex calciatore tedesco, in linea con la mia idea di decenza, comportamento e responsabilità personale. Hoeneß ha anche annunciato le sue dimissioni da presidente del Bayern, a cui è legato da 44 anni, prima come giocatore e poi da dirigente. Infine, dal 2009 come patron. A succedergli sarà la D dell'Adidas, il 60enne Herbert Heiner. L'ex capitano della nazionale tedesca, 62 anni, inizierà a scontare la pena tra 2 settimane nel carcere bavarese di Landsberg am Lech. Una scelta personale che merita rispetto, il commento di Angela Merkel: se il Bayern è il migliore del mondo, lo dobbiamo lui, sarà per sempre mio amico. Le parole dell'allenatore del Bayern Monaco, Pepe Guardiola. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, ma per altre questioni. Non è nei piani di Mosca invadere l'Ucraina dell'Est. Questo l'ha dichiarato il ministro degli esteri russo Lavrov dopo il colloquio a Londra col segretario di Stato americano Kerry, il quale in una conferenza stampa separata ha detto: non riconosceremo l'esito del referendum in Crimea. Sentiamo il racconto allora dell'inviata in Crimea del Sole 24 Ore. A Kerch, all'estremità orientale della Crimea, dove la terra già quasi sfiora la Russia, distante solo 4,5 km, gli abitanti assicurano che al referendum di domenica voteranno quasi tutti per riunirsi alla Russia. Là sono le nostre radici, dice una ragazza, e queste russe anche per i cosacchi venuti dal Don a affiancare gli uomini armati in passamontagna che hanno preso il controllo del traghetto tra le due sponde, l'esercito senza nome che sta gestendo la crociata russa in Crimea. Alla vigilia del referendum, Mosca ha rafforzato il contingente con uomini e armamenti e infatti da Kerch abbiamo visto dirigersi verso l'interno un lungo convoglio che trasportava artiglierie e truppe. Ma se quello che la gente di qui chiama il ritorno a casa della Crimea è ormai dato per certo, il Ministero degli Esteri russo ha commentato gli scontri di giovedì sera a Donetsk, in cui è morto almeno un manifestante, rivendicando il diritto di Mosca di prendere sotto la propria protezione i concittadini che vivono in Ucraina, dunque soprattutto quelli delle regioni orientali. Il nuovo premier di Simferopoli, Aksionov, dice che anche le province dell'est avrebbero diritto a organizzare referendum per passare in Russia. Forse la Crimea è già tornata russa, ma non è detto che a Putin basti fermarsi qui. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore, Kerch. E poi l'Egitto, con 2 morti che ci sono stati oggi negli scontri avvenuti al Cairo tra manifestanti pro-Morsi e forze dell'ordine che hanno disperso un corteo. Altri scontri ci sono stati anche in altre regioni dell'Egitto, quindi continua a essere molto tesa la situazione e quindi non assolutamente opportuno andare in Egitto per eventuali vacanze. 3 anni fa poi iniziava il conflitto in Siria e la situazione per quanto riguarda i profughi in particolare continua a essere drammatica, anche lì sono 6 milioni e mezzo gli sfollati nel paese. Adesso cambiamo completamente argomento. Per chiudere lo stadio sui terreni dell'Expo a Milano arriva la lettera di interesse di Barbara Berlusconi per il Milan. Il Milan, in pieno uragano sportivo, pensa a un qualche tipo di futuro, non favoleggiando su giocatori irraggiungibili perché lì non si cambia rotta. Soldi per quelli non ce ne sono e non ce ne saranno. Quanto immaginando una casa di proprietà dopo una vita in affitto in quel vecchio monumento che è ormai in San Siro. In realtà si tratta semplicemente di una riconferma dell'interesse all'acquisto dell'area che ospiterà l'Expo e dopo l'evento andrà dismessa. RO, Milano Nord, il diavolo vorrebbe prendere la tangenziale ovest. Una prima manifestazione di gradimento era stata recapitata a novembre, all'epoca della rivoluzione d'autunno di Lady Barbara Berlusconi contro Galliani. Ora scadeva però un altro termine burocratico per una riconferma che è arrivata. Palla alla società che gestisce l'Expo e se son rose le vedremo spuntare tra le montagne di carta della burocrazia italiana. Qualche malizioso o ben informato dà un'altra lettura. Ecco un'altra mossa verso la cessione del club. Prima si ripianano i bilanci e poi si prospetta all'arabo di turno il progetto avviato di uno stadio nuovo. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come sarà sarà, in ogni caso vedo ancora man mano i vostri messaggi che arrivano sull'annuncio di Silvio Berlusconi che si candiderà alle europee e, dice un ascoltatore, mi chiedevo ma non è che l'effetto annuncio sugli 80? Sugli 80 immagino anni. E poi invece un altro ascoltatore non si firma, dice dopo 20 anni parli ancora di Silvio, rivolto a me, il mondo cambia, ma è stato un annuncio, una notizia di oggi, anzi delle ultime ore di questa giornata. E poi Roberto da Carpi scrive, Berlusconi vuole essere come Silvio il pellico, cioè mentre sconta la pena dalla sua prigione fa campagna elettorale da vittima sacrificale per la libertà. E vi dicevo quindi un argomento grosso di oggi, ma in realtà diciamo sempre enorme a livello italiano ma anche internazionale, questo dei cosiddetti cartelli tra le aziende farmaceutiche, l'avete sentito anche in altri settori, e quando delle aziende diciamo un po' dietro le quinte si accordano per favorire per il proprio profitto, il profitto di tutte le aziende che si uniscono diciamo in questo accordo facendo finta di farsi concorrenza e poi invece dietro le quinte salvaguardano reciprocamente i propri interessi. Bene, il Consiglio dei Ministri oggi ha dato il via libera al decreto che prevede delle norme precise contro questi cosiddetti cartelli nelle aziende del farmaco, dopo il caso enorme Novartis e Roche. E il provvedimento, dopo questo caso, cioè le due aziende leader del settore farmaceutico che si sono accordate, per questo sono state multate dall'antitrust per 180 milioni, si sono accordate per favorire la diffusione sul mercato di un farmaco più costoso per gli occhi, Lucentis, rispetto ad un secondo medicinale analogo ma meno oneroso, l'Avastin, e con danni enormi per il sistema sanitario nazionale che potete immaginare, che avete sentito in questi giorni. Allora, su questo argomento saluto il dottor Matteo Piovella. Buonasera, dottor. Buonasera a lei. Segretario della SOI, della Società Oftalmologica Italiana, cioè si occupa della salute degli occhi in parole povere, e Sara Todaro del Sole 24 Ore. Ciao Sara. Ciao, buonasera a tutti. Sara, prima di parlare col dottor Piovella, che poi è quello che è un po' scatenato anche poi quello che è successo, la scoperta di questi inganni, e poi l'intervento dell'antitrust, eccetera, ti va di riassumere brevemente, di dire un po' come mai si è arrivati a questo punto? Evidentemente qualcuno non ha vigilato, ci sono le solite lobby che premono? Diciamo le lobby che premono e ci sono sempre, c'è un'inadeguatezza anche del sistema regolatorio nazionale, come dicevi tu oggi in Consiglio dei Ministri sono passate delle norme urgenti che cercano di eliminare alcuni paletti, diciamo è un po' un disastro annunciato, il dottor Piovella lo spiegherà ancora meglio di me. La normativa italiana consente di l'uso di un farmaco in modalità off-label, cioè per una indicazione diversa da quella per cui è registrato, e quindi si può utilizzare e concedere a carico dell'SSN, come è stato per l'Avastin, per un certo periodo, finché in Italia non è arrivato il farmaco più costoso, Lucentis, registrato con l'indicazione in campo oftalmologico, e dunque Avastin ha smesso di essere somministrato, c'è una differenza di prezzo colossale tra i due prodotti, e da qui nasce il problema, è un problema che però è esploso e è arrivato a compimento ora con la sentenza dell'antitrust su questa materia per modificare la normativa esistente. C'è già stato un tentativo nella passata legislatura col decreto legge Balduzzi, la norma in Parlamento è stata impallinata per così dire, perché già lì si era provato a mettere un correttivo alla legge attuale sugli off-label per dire se siamo nella situazione in cui all'estero vediamo che viene utilizzato off-label un determinato prodotto che è molto più conveniente dal punto di vista economico, e ci sono studi di qualche genere che dimostrano che è efficace per quell'indicazione, si possono concedere. Ecco, questa norma qui non è passata al primo tentativo. Il decreto legge che è stato approvato oggi, proposto dal ministro Lorenzin, attribuisce all'AIFA la possibilità di fare delle sperimentazioni indipendenti e quindi di affrontare il problema, perché il problema qui è che l'indicazione per il farmaco deve chiederla, secondo la normativa, è l'azienda a chiederla. E se non c'è questa richiesta, non c'è la registrazione con quell'indicazione. Allora, questo decreto autorizza l'AIFA, che è l'Agenzia Italiana dei Farmaci, l'ente regolatorio nazionale, a fare delle sperimentazioni d'ufficio e dunque a verificare se quel farmaco può essere prescritto o meno, può essere concesso o meno a carico dell'SSN, con un'indicazione diversa da quella per cui è stato inizialmente registrato. Questo infatti era relativo, questo discorso, appunto Sara e Todaro, all'Avastin, quello che costava molto meno, che in realtà era prima un farmaco oncologico, quindi per curare i tumori, poi si è scoperto che era efficace anche nel guarire certe patologie dell'occhio, costava anche molto poco, però poi queste aziende, abbiamo detto Novartis e Roche, secondo l'accusa si sono messe insieme per cercare di far vendere Lucentis e dividersi poi i profitti. Questo diciamo è brevemente quello che sembra essere emerso dall'istruttoria dell'antitrust. Sì. Ovviamente le aziende negano che sia andata così. Respingono qualsiasi accusa, hanno già annunciato e ripetuto anche oggi che faranno ricorso. Devo dire che ho tentato, abbiamo tentato di sentirle e sono state possibiliste per qualche ora, dopodiché a un certo punto non si sono più sentite, quindi avrebbero avuto anche l'occasione di intervenire. Ma vorrei sentire anche il dottor Matteo Piovella. Dottore, tra l'altro lei mi pare che già 2 o 3 anni fa aveva cominciato a dire che c'era questo farmaco Avastin che poteva essere utilizzato, mentre invece se ne stava spingendo un altro più costoso, e lei addirittura parlava, mi sembra, al tempo di autodenuncia di disobbedienza medica e civile, no? Da parte sua. Questa storia è incominciata nel 2007, perché è ovvio che è una cosa che interessa 380.000 pazienti che oggi sono in terapia in Italia. È sicuramente stata una cosa molto complessa. Io ritengo comunque che sia stata una particolare eccezione. È ovvio che le aziende agiscono per il loro business e seguono delle regole di mercato e di profitto, e questo a un certo punto, se le regole internazionali lo consentono, penso che bisognerebbe probabilmente cercare di mettere qualche paletto, perché ad esempio il problema fondamentale è che oggi il prezzo di un farmaco non avviene come per esempio il prezzo di un vestito. Lei lo compra ai grandi magazzini a un prezzo, lo compra nella boutique di Valentino ne ha un altro, ma ci sono dei riferimenti. Oggi il prezzo del farmaco è stabilito autonomamente dall'azienda, senza motivazione di costi o di quello che è stato speso, ma più che altro confrontandolo con il costo di quello che fa risparmiare. Cioè, se io usando un farmaco faccio risparmiare un intervento che costa 20.000 euro, il farmaco lo vendo a 20.000 euro, quindi con una situazione che secondo me è solo unilaterale. E in più il problema è che la cosa straordinaria è che nel momento in cui c'è stata la comprensione che questo farmaco che veniva usato per il tumore del colon, tutti questi pazienti tornavano a vedere, quindi c'era una grandissima apertura per chiedere l'approvazione anche per l'uso degli occhi, inspiegabilmente è sempre l'azienda che ha piena facoltà di decidere se farlo o meno, e incredibilmente questa azienda non l'ha fatto, per poi cedere il brevetto di un farmaco praticamente derivato, cioè molto simile, a un'altra azienda, e da lì poi naturalmente si è cercato di andare avanti a sostenere uno rispetto all'altro, perché vi ricordo che il farmaco meno costoso oggi costa 15-20 euro, mentre il farmaco più costoso 1300 costava, 1700, adesso è arrivato a 700, però insomma sono situazioni veramente complicate. Certo, poi è un problema, dottor Piovella, quello di queste intese tra case farmaceutiche che solo, leggevo, nel 2012 è costato al Servizio Sanitario Nazionale 45 milioni di euro. Sì, ma sono delle stime per difetto, perché naturalmente fino a un certo punto gli oculisti sono stati in grado di utilizzare l'Avastin nel 90% delle situazioni, quindi il farmaco più costoso era veramente in Italia compresso, tanto che faceva l'Italia, diciamo, la maglia nera per la redditività di Novartis, perché rispetto agli altri paesi gli incassi erano notevolmente inferiori, bassi. Nel momento in cui, nell'ottobre del 2012, quando è entrata questa parola magica che ha incominciato a insinuare il sospetto che che il farmaco più meno caro potesse essere potenzialmente pericoloso per la salute dei pazienti, è evidente che si è immediatamente bloccato tutto, e quindi poi le vendite del farmaco più costoso sono schizzate molto in avanti, perché ovviamente non ci poteva essere alternativa. Ma secondo l'accusa, questo boicottaggio di questo farmaco da parte delle due multinazionali del farmaco, dicendo che era pericoloso, era dovuto, secondo l'accusa, a voler spingere l'altro molto più costoso. Ma Sara Todaro, per chiudere, chi doveva vigilare su tutto questo e accorgersi prima di come stavano andando le cose? Ma il problema è di fatto, ma vigilare, il problema, come giustamente dice Viola, e come capita, può testimoniare a chi segue le vicende di politica sanitaria, tutte queste cose sono state scritte a partire dal 2007, a partire quando, da quando è iniziata la vicenda, ripeto, da parte degli oculisti, da parte delle associazioni dei pazienti è stata denunciata questa situazione. L'assetto normativo non consentiva probabilmente finora di risolvere il problema. A livello europeo la richiesta avanzata dalla Roche di inserire delle notizie su appunto su reazioni avverse di Avastin nell'impiego oftalmologico è stata solo in parte respinta, ma è comunque apparso qualcosa riguardo al profilo di sicurezza del prodotto, e diciamo AIFA ha recepito questa indicazione escludendo, dopo appunto la modifica di queste informazioni a livello europeo, escludendo Avastin dall'ambito oculistico, ecco, quindi non più autorizzato dall'SSN. Quindi le cose poi sono andate avanti in questo senso, speriamo adesso con questa stretta sui cartelli multinazionali del farmaco da parte del Consiglio dei Ministri le cose cambino. Dottor Piovella, vuol dire una cosa proprio negli ultimi 20 secondi che abbiamo? Sì, guardi, il problema è questo, questa è una situazione particolare. Abbiamo bisogno di un provvedimento specifico su Avastin, sul farmaco meno costoso, proprio perché senza un provvedimento specifico anche le norme prese oggi non sono sufficienti e non possono garantire i medici dal tornare a utilizzare questo farmaco. Quindi la buona volontà del ministro per un provvedimento di tipo generale è assolutamente encomiabile, però la situazione è ancora bloccata, abbiamo bisogno di avere la possibilità di frazionarlo in modo sicuro, abbiamo bisogno di toglierci questa nomea di questo farmaco che è pericoloso, e soprattutto abbiamo bisogno di creare un'eccezione a una legge che in questo momento, ancora oggi, ci impedisce di usare questo farmaco. Chiarissimo, dottor Matteo Piovella, speriamo che la ministra Lorenzin sia consapevole anche di questi aspetti e proceda in questo senso, altrimenti appunto si è più o meno nella situazione di prima. Grazie professor Matteo Piovella, grazie Sara Todaro. Buona serata, grazie, buona serata a voi. Grazie a voi, grazie a voi. Eccoci ancora insieme, vediamo se riusciamo, ecco, Crozza Renzi, Crozza nel Paese delle Meraviglie sulla 7 è già andato, vediamo adesso di che cosa sta dicendo, giusto così per sorridere un po', un applauso in realtà. Renzi è piaciuto a tutti, è piaciuto anche a Della Valle, il patron della Toz, gli è piaciuto Renzi perché obiettivamente le scarpe che ha fatto Letta sono un capolavoro. Insomma, dicevamo già ieri, no, questo miracolo ha compiuto Renzi di riuscire a piacere a tutti, almeno fino a ieri, dalla CGL a Marchionne, a Squinzi. Oggi qualche distinguo in realtà c'è ad Alfano, che è il nuovo centrodestra. Adesso però vi ricordo i titoli e poi parliamo di quanto vi avevo anticipato poco fa. Il piano di Renzi è un progetto ambizioso, dice la cancelliera Merkel. Per Squinzi il governo è sulla strada giusta, ma la CGL teme che il Jobs Act porti altra precarietà. Europei, Berlusconi annuncia la sua candidatura, sarò in campo nelle 5 circoscrizioni. Faccia a faccia Kerry Lavrov, la Russia dichiara di non voler invadere l'Ucraina dell'Est, ma gli Stati Uniti non riconoscono il referendum sull'indipendenza della Crimea. Farmaci, l'abbiamo appena sentito dal Consiglio dei Ministri, stretta sui cartelli tra le industrie farmaceutiche e sulle droghe leggere, il governo rivede le tabelle e distingue tra quelle pesanti e quelle leggere. Per il Milan c'è la possibilità, almeno sembra, di interesse da parte della squadra rossonera per lo stadio sui terreni dell'Expo, dicendo poi addio a San Siro. Dunque, quindi avete sentito di Berlusconi, dicevamo all'inizio, che ha intenzione di candidarsi alle europee. Vedo poi qui un'agenzia di questi istanti, vediamo se riesco ad aprirla, che dice... non si apre, però il titolo è questo: Berlusconi, voto tra un anno e mezzo al più tardi. Questo invece per quanto riguarda le politiche in Italia, ma restiamo per quelle che sono più vicine, cioè a maggio le elezioni europee. Oggi l'aveva annunciato il suo consigliere politico e che dovremmo avere la voce di Giovanni Toti, vero? Sentiamolo. È il leader del nostro partito, è stato condannato con una sentenza che riteniamo ingiusta, ci sono molti ricorsi pendenti, a nostro avviso sarebbe una lesione della democrazia se Silvio Berlusconi non potesse guidare le liste dei moderati in questo paese. Non si tratta di forzare la mano, si tratta a nostro avviso di difendere il legittimo diritto dei moderati italiani ad essere rappresentati dal nostro leader. Ecco, questo appunto Giovanni Toti oggi. Poi in serata vi leggevo prima in tempo reale le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che al telefono con un'iniziativa di Forza Italia Montecatini ha detto un sacco di cose, ha detto anche questo, ha confermato che si vuole presentare. Quindi io saluto su questo argomento coinvolgendo Paolo Armaroli, buonasera, grazie buonasera di essere qui a Effetto Notte, docente di diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova, membro del comitato scientifico della Fondazione Magna Carta presieduta da Gaetano Quagliarello. Deputato in passato in Parlamento dal 96 al 2001 per Alleanza Nazionale, è stato capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, collabora col giornale. Mi scusi. Ecco, dal suo punto di vista, quindi, è una cosa fattibile? Leggo tanti messaggi di ascoltatori che sono curiosi di capire, ma come c'è questa condanna definitiva e può, nonostante la legge Severino, presentarsi agli europei? Allora, in Italia non si può, ma... alle elezioni europee, Armaroli? Ma guardi, la questione sta in questi termini. Innanzitutto, da un punto di vista politico posso capire che Berlusconi voglia presentarsi per avere un effetto di traino sul suo partito. Le elezioni europee sono molto importanti anche per quotare ogni partito, visto che le elezioni politiche sono andate come tutti sanno. Dal punto di vista giuridico, però, stando almeno a quanto ha riferito Toti, dice che la non candidabilità sarebbe un vulnus alla democrazia, che è un discorso un po' così, come dire, nei rami alti, ma quagliando che cosa può essere. Evidentemente Berlusconi o i suoi consiglieri sperano che i controlli sulla candidabilità siano ex post e non ex ante, cioè, mi spiego, sì, che il controllo possa essere dopo le elezioni e non prima. E quindi Berlusconi sa benissimo che una volta svoltesi le elezioni, le corti d'appello, eccetera, eccetera, nelle cinque circoscrizioni europee non proclamerebbero Berlusconi proprio ai sensi dell'articolo 4 della cosiddetta legge Severino, che è molto breve, lo posso citare, sì? Dice: non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 1. E l'articolo 1 della legge Severino prevede appunto la incandidabilità anche per le elezioni europee, quindi, ma non solo per le elezioni europee, per coloro che sono stati condannati a più di 2 anni di reclusione con sentenza definitiva. Ecco, quindi evidentemente Berlusconi spera di farla franca, cioè di potersi presentare, e poi subito dopo le elezioni gli uffici circoscrizionali dichiarerebbero la non proclamazione, o addirittura Berlusconi potrebbe sperare che una volta proclamati, qualora tutti si addormentassero, che poi il Parlamento europeo non convalidasse le elezioni. Il guaio è che, oltre ai controlli successivi che ho appena detto, esiste anche un controllo preventivo, cioè prima delle elezioni, perché una volta formate le liste nelle 5 circoscrizioni, gli uffici elettorali vedrebbero subito che è capolista nelle 5 circoscrizioni Silvio Berlusconi, che è incompatibile proprio ai sensi del citato articolo 4 della legge Severino. Quindi io ho l'impressione che Berlusconi, c'è il rischio che batta la testa contro il muro, senza, a meno che non voglia appellarsi da quel grande anche attore politico che è, possa atteggiarsi a vittima, anche perché effettivamente sulla legge Severino se ne sono dette di tutti i colori, cioè per esempio si è detto ma può essere retroattiva la legge Severino o no, perché se non fosse retroattiva evidentemente non sarebbe applicabile a Berlusconi e a molti altri. Ricordo tuttavia che sia per i consiglieri regionali sia per i consiglieri provinciali ormai è stata applicata, se non ricordo male, una 40 di volte, con la decadenza o appunto l'incandidabilità, qualora appunto se fossero già stati eletti, dei vari consiglieri regionali e dei consiglieri provinciali. È stato chiarissimo, professor Paolo Armaroli. La ringrazio. Grazie a lei. Grazie professore. E vedevo anche i vostri messaggi. Tommaso che dice: tanto di cappello il presidente del Bayern che si è dimesso per evasione fiscale, qui invece Berlusconi pensa a candidarsi. Questa sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Domenico: secondo me ci sono gli estremi per invalidare la lista, ma diceva prima Armaroli che si può, dopo possono esserci controlli oppure anche prima. Nadia: allora mi chiedo cosa serve una sentenza. Alessandro: quando sento queste cose perdo il mio aplomb. Massimo: credo che sia una mutata mediatica per radunare il gregge dei Berlusconis e caricarli a molla per aumentare l'indignazione quando si scoprirà con meraviglia che è incandidabile. E Arturo dice: motivano dicendo che milioni di italiani hanno diritto di scegliersi il leader nelle elezioni, però contemporaneamente approvano una legge elettorale che toglie definitivamente le preferenze. Parlavamo di Europa, quindi di Berlusconi che si candida alle europee, anche se secondo il costituzionalista Armaroli non può farlo, ma intanto restiamoci quindi sull'Europa. Le città sono il volano della nostra economia, degli strumenti per far ripartire la crescita. Ne è convinto il commissario europeo per gli affari regionali Johannes Hahn, che ha lanciato l'iniziativa di un'agenda urbana europea per sensibilizzare le autorità dei vari paesi a considerare l'impatto delle loro politiche sulle città e a lavorare insieme su progetti comuni. Per pianificare la nuova agenda urbana a Bruxelles, il mese scorso si sono riuniti esperti e amministratori locali dei 28 paesi. Ogni città ha mostrato i propri punti di forza e la mobilità sostenibile è sicuramente il fiore all'occhiello di Copenaghen. Alessandra Schepisi ha intervistato Licke Leonardensen, responsabile strategico della capitale danese. Europa 24 notte. Verso le europee. La città ha lavorato per anni sulla mobilità sostenibile, concentrandosi principalmente sulla bicicletta. L'idea è quella di far sì che sia più facile prendere la bici che la macchina, e quindi abbiamo migliorato le condizioni per le biciclette, dando priorità a queste sulla macchina in molte situazioni. Alle persone conviene prendere la bicicletta perché trovano più posto per parcheggiarla, perché è un mezzo più flessibile. Quindi le persone che vivono a Copenaghen non è che la bici

Adesso dobbiamo correre dal colonnello Mario Giuliacci, caro colonnello, perché qui ormai stiamo andando verso l'estate, no? Diciamo la verità. Corrono sì, i tempi. Diciamo che lentamente, però, ecco. Allora, cosa possiamo dire? Questo fine settimana, domani un po' di nuvole al nord, un po' sud, ma senza fenomeni di rilievo, solo qualche debole pioggia sulla Calabria. Alla fine della giornata questa perturbazione che porta nuvole al nord direi porterà qualche debole nevicata sul confine, e nella notte tra sabato e domenica arriverà anche col vento tiepido che è il Fen, quindi domenica temperature in deciso rialzo soprattutto sulle regioni di nord-ovest, quando sfioreremo a 22-23 gradi, forse è questo che tu volevi sentirti dire. E sul resto d'Italia comunque temperature gradevoli ovunque, sempre nella giornata di domenica, quindi una giornata di domenica all'insegna del bel tempo con temperature deliziose. Oltre, non mi spingo, ma potrei dire tutto sommato che fino a mercoledì il nostro amico l'anticiclone della Azzorre impedirà che altre perturbazioni possano raggiungere l'Italia, quindi ancora tempo bello almeno fino a mercoledì, quindi goditi queste giornate di sereno, di tempo bello, perché poi oltre non ti posso concedere altre chance. E viva l'anticiclone delle Azzorre almeno per il momento, via, contentiamoci di questo, fuori certo. Il bikini da domani, grazie colonnello Giuliacci, il resto su www.meteogiuliacci.it. Ciao colonnello, buon tempo a te comunque sia. Grazie Roberto, un saluto.